Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti 16.33, Luca Tremolada. Oggi puntata dedicata alle lingue artificiali immaginari, immaginate. Possibili. Impossibili. La voce, la lingua che avete sentito, la voce che avete sentito è di Guido Romeo, ma ora le news. La Cina mette la turbina. La Repubblica Cinese ha superato di slancio i concorrenti in Danimarca, Germania, Spagna e Stati Uniti, salendo nel 2009 al primo posto nella classifica globale di produttori di turbine eoliche, dopo essersi piazzata prima per 2 anni di fila tra i costruttori di pannelli solari. Un gigante dell'energia rinnovabile, tanto che secondo il New York Times l'Occidente rischia di trovarsi nel giro di pochi anni a dover contare sulla Cina per le forniture di apparecchiature per la produzione di energie rinnovabili. Smartphone sì, ma low cost. Esplode la domanda di telefonini intelligenti più economici. Secondo Strategy Analytics, la battaglia per aggiudicarsi questa fetta di mercato si inasperirà nel 2010 e nuovi venditori si affacceranno sul mercato. Per i consumatori, una buona notizia: la concorrenza fa calare i prezzi. Mass Effect 2 fa il pieno. Il secondo episodio della saga di BioWare ha venduto oltre 2 milioni di copie nella sola settimana di lancio. Acclamato dalla critica, il videogioco inizia con la notizia della morte di Shepard, il protagonista di Mass Effect. Razze aliene, magia e guerre spaziali, gli altri ingredienti della storia. Imperdibile per gli appassionati dei mallopponi di fantascienza. Aiela Norwea, Siela Nor Litfia Ele Navinuot. Allora, che cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando Avatar, Navi, la lingua dei navi, la lingua del popolo dei navi, degli alieni, del grande successo di James Cameron, di un grandissimo film, ecco. Una lingua disegnata a tavolino che si può imparare, ci sono diversi manuali in rete, ma che non esiste di fatto. Infatti noi siamo andati proprio a capire cosa c'è dietro questa nuova lingua. Ha 20 consonanti, 7 vocali, 4 dittonghi e 2 pseudovocali sillabiche, RR e LL. È la lingua Na'vi, inventata da Paul Frommer, linguista presso l'Università della California, apposta per il colossal Avatar di James Cameron. È una lingua aliena, ma tutt'altro che impossibile da imparare, perché Frommer l'ha concepita proprio perché potesse essere imparata e parlata dagli attori. Le parole sono più di un migliaio, quanto quelle di molte delle lingue meno complesse, e in rete ci sono già dizionari e corsi di Na'vi scaricabili gratuitamente, ma la pronuncia non è sempre delle più immediate. Delle 3 diverse proposte di lingua inventata che Frommer ha concepito per il film e che si richiamavano tutte a idiomi del Pacifico, come il polinesiano e il maori della Nuova Zelanda, Cameron ha scelto quella con più consonanti eiettive, simile all'amarico, che si parla in Etiopia per il suo suono. Il risultato è una lingua che si può imparare anche se non si è degli alieni blu alti 4 metri e che Frommer spera diventerà altrettanto popolare del Klingon di Star Trek, nel quale sono già stati tradotti classici come l'Amleto. Allora, noi abbiamo pubblicato sul Twitter di Nova Lab l'indirizzo per scaricarsi il manuale, per impararla. Tra l'altro sa molto di indio, di indiano, no? A me ricorda francamente un po', come si chiamava, il film... Balla coi lupi? No, quello con i Windtalkers. Ah, ok, il codice quello indiano. I Navajo che nella Seconda Guerra Mondiale parlavano in Navajo perché era un codice perfetto, indecrittabile da parte dei giapponesi. Ecco, noi abbiamo in collegamento, proprio per cercare di capire come nascono queste lingue, come vengono percepite, come funzionano, Andrea Moro, linguista. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro, com'è che si inventa una lingua? Ma è una buona domanda. In realtà dipende da quello che si vuole fare. Se volessimo fare una partizione, la più generale possibile, si potrebbe dire che una lingua può essere inventata per gioco o per uno scopo. E a seconda delle 2 direzioni che si prendono ci sono ricette diverse, ovviamente. Ah, in che senso ci sono ricette diverse? Dunque, nel caso, iniziamo con le lingue inventate per gioco. In questo caso ci si basa fondamentalmente sul potere evocativo che hanno i suoni delle lingue straniere. A tutti sarà capitato di sbagliare mettendo su un DVD e di sentire Via col vento in aramaico. Beh, forse in aramaico no, però... Beh, non a tutti strana. Tutti, non a tutti tutti, dai. Beh, insomma, forse qualche linguista, sì. Diciamo, l'effetto evocativo della lingua è molto potente. È molto interessante notare che spessissimo è stata proprio l'invenzione di una lingua che ha fatto da propulsore della letteratura. Forse il capostipite di tutte queste esperienze è quella di Tolkien. Tolkien era anche egli un linguista, ha iniziato con l'inventare una lingua elfica e poi ha costruito dietro questa lingua una mitologia, una filologia addirittura con altre lingue imparentate con questa e poi tutta la saga che tutti noi bene conosciamo. In questo senso allora la lingua artificiale procede a tentoni seguendo il filone che uno preferisce. Ci sono anche esperimenti molto interessanti nella letteratura italiana. C'è un bel racconto che si intitola Il dialogo sui massimi sistemi di Landolfi, che contiene una poesia inventata che inizia dicendo Aga Magera di Fura. E tra l'altro questo è proprio il titolo di un bel libro che uscì qualche anno fa, che era una raccolta delle lingue inventate, le lingue immaginarie. Poi ci sono anche delle lingue in qualche senso che sono un po' una parodia di altre lingue. Viene subito in mente l'Europanto di Diego Marani, inventato a metà degli anni 90, che era una specie appunto di parodia delle lingue comuni inventate per facilitare le comunicazioni. Ci sono poi anche intere raccolte di poesie, c'è La gnosi delle fanfole, una bellissima raccolta di poesie italiane su lingue inventate. Però qui si entra in un continente, un arcipelago, vedetelo come volete voi, dove ognuno ha il diritto di piantare la propria bandiera, per così dire. Ecco Moro, io so che lei ha inventato, ne ha inventate anche lei di lingue come l'evroniano di disneyana memoria, che poi ci dovrà raccontare che cos'è, ma la domanda è: qualsiasi lingua, si può inventare una lingua qualsiasi o ci sono delle lingue che, come dire, sono impossibili da parlare, che non hanno senso per il nostro cervello? Questa è la domanda decisiva, nel senso che a questo punto si passa dalle lingue inventate per gioco alle lingue inventate per con uno scopo, diciamo così. Qui il punto decisivo è questo. Nel Novecento una delle scoperte della linguistica più importante è stata quella che non tutte le regole concepibili delle grammatiche si trovano nelle lingue del mondo. Noi potremmo decidere di mettere insieme una regola qualsiasi. Proviamo a fare un esempio. Immaginiamo di dover costruire una frase negativa in italiano. Noi usiamo non, invece di dire Gianni parte, diciamo Gianni non parte. Invece di dire domani prenderò un treno, domani non prenderò un treno. Okay. Si potrebbe, per esempio, decidere di utilizzare una strategia che si trova spesso nelle lingue, cioè quella di invertire le parole. Ad esempio, tutti sanno che in inglese se dico John is tall, Gianni è alto, per fare la forma interrogativa, scambio l'ordine del verbo essere col soggetto, dico is John tall. Uno potrebbe dire, beh, inventiamoci una regola che per fare una frase negativa gira esattamente tutto l'ordine delle parole di una frase affermativa. Questa è una regola concepibile, però nessuna lingua al mondo la sfrutta. Perché? Perché, no, non, perché è troppo faticoso immaginarla? Perché? No, ecco, questa è proprio la domanda interessante. Quando insieme a un gruppo di ricerca con cui lavoro abbiamo iniziato ad affrontare questo problema, la domanda era proprio questa: perché? Ed è un po' la domanda che ci si pone sempre, tutte le volte che uno scienziato trova che qualcosa manca, che un tassello non c'è all'interno di un puzzle complesso, ci si chiede sempre se non si è controllato troppo bene oppure se c'è qualche cosa per cui quel pezzetto deve mancare. Allora abbiamo provato a costruirla una lingua di quel tipo, cioè una lingua dove alcune frasi potevano trasformarsi rovesciandosi da capo a fondo. E a quel punto abbiamo visto una cosa che a noi è sembrata interessante, poi è diventata anche l'oggetto di una pubblicazione e di vari altri lavori. Cioè abbiamo visto che le persone non fanno più difficoltà a imparare una regola di questo tipo. Semplicemente il cervello, quando viene sottoposto ad una grammatica che contiene una regola di queste che non si trovano mai, disattiva i circuiti neuronali che sono normalmente deputati alla comprensione del linguaggio e smista queste frasi e le fa trattare da altre reti, da altre parti del cervello. Cioè, questo in soldone, per provare a semplificare, vuol dire che cioè la capacità di inventare lingue è finita, ed è finita, cioè non riusciamo a non c'è una predisposizione a imparare qualsiasi tipo di linguaggio, qualsiasi tipo di grammatica. Sì, diciamo di sì. Cioè, da un certo punto di vista noi possiamo con una capacità che chiamerei quasi enigmistica, inventare quello che vogliamo. Ma nel momento in cui proviamo ad apprenderlo, subentrano dei meccanismi diversi. Quindi, in un certo senso, alcune lingue non sono, per così dire, digeribili dal cervello. Un po' come se io volessi studiare l'apparato digerente e non potessi farlo se non osservando cosa mangiano gli esseri umani. Beh, potrei provare a offrire ai loro un bicchiere di cherosene, una frittata di quarzo o altre strane ricette impossibili. Quando vedo che le rifiutano, allora capisco che queste ricette che a tavolino si possono costruire non sono compatibili con l'organismo umano. Ecco, ci sono lingue non compatibili con il cervello. Probabilmente sono le lingue che sono impossibili da apprendere per un bambino. Ecco Moro, un'altra domanda per scendere ancora più nello specifico, perché è molto avvincente, si richiamano tutti le teorie di Chomsky sulla grammatica innata, con cui Chomsky è il grande linguista americano con cui lei ha lavorato anche, ma le rovescio la questione. Sì. Il nostro cervello, come dire, l'hardware, può imparare qualsiasi lingua che viene parlata nel mondo, o il cervello dei cinesi è come dire, un processore predisposto per un software, per una lingua particolare, e invece il cervello degli europei impara più facilmente le lingue indoeuropee? Dunque, intanto meno male che la domanda l'ha girata come senso e non come ordine delle parole, se non avrei capito niente. Però deve provare a fare un miracolo di linguaggio e rispondere in 10 secondi, se riesce. No. Sennò... Tutti i bambini sono predisposti ad apprendere qualsiasi lingua, questo si sa per esperienza. Gli adulti meno? No, gli adulti qualsiasi delle lingue possibili. Il fatto di apprendere spontaneamente, questo è un altro paio di maniche. La lingua si può apprendere solo entro un periodo determinato della nostra vita, non di più. Nova Lab 24. Eccoci, sentiamo un secondo di Lily Allen in Simlish. Quella di cui stiamo parlando è Lily Allen, che è un importante cantante pop che ha cantato in Simlish. Cos'è il Simlish? Simlish è la lingua dei Sims. Il Sims è il videogioco più venduto nella storia ed è una lingua completamente artificiale, ma non c'è solo questa come lingua artificiale. Sentiamo nella scheda. Doug vuol dire ciao. Sun Sun, che vuol dire ci vediamo. Sono alcune espressioni in Simlish, la lingua dei Sims, il videogioco più venduto nella storia. Creata da Will Wright e Mark Gimbel, è un mix inventato da filippino, navajo, ucraino e altri linguaggi. A differenza di altre parlate sintetiche, il Simlish non ha mai voluto essere una lingua strutturata, con una propria grammatica precisa, ma un nonsense language per esprimere emozioni e stati d'animo in modo immediato ed efficace. Di tutt'altro genere le lingue artistiche che discendono dalla fantascienza o dal fantasy. In Star Trek un oggetto di culto è il Klingon. Progettata da Mark Okrand per la Paramount Pictures, oltre a diventare gergo per nerd, ha ispirato il Klingon Language Institute, un centro dove esperti e studiosi si riuniscono per promuovere la cultura Klingon. Più ludico, l'universo delle lingue di Guerre Stellari, dai grugniti di Chewbacca agli squittii del popolo degli Ewoks. Sul sito di Star Wars è possibile campionare e remixare questa babele di suoni, magari per inventare una nuova lingua. Ecco Moro, volevo tornare su una cosa che ha detto proprio in chiusura del pezzo precedente. Si può imparare qualsiasi lingua, il nostro cervello può imparare qualsiasi lingua, ma soltanto in un momento definito della nostra vita. Cioè, dobbiamo imparare a parlare da piccoli, se no non impariamo più a parlare, questo? Sì, diciamo così, l'apprendimento spontaneo, cioè quello che è capitato a ciascuno di noi, può avvenire soltanto grosso modo entro i limiti della pubertà. Questo si sa sia per esperienza diretta che da studi clinici. C'è un lavoro fondamentale che è uscito negli anni 60 di Lenneberg, si chiama I fondamenti biologici del linguaggio. Lenneberg era un neurologo e aveva scoperto che in caso di afasia acquisita dovuta a una lesione di qualche tipo all'encefalo, le persone tendevano a recuperare la lingua in modo spontaneo molto più facilmente se questo avveniva in epoca prepuberale. Questo dato aveva scardinato l'ipotesi che il linguaggio fosse, la struttura del linguaggio fosse determinata dall'intelligenza generale di un individuo, perché altrimenti gli adulti dovrebbero essere favoriti, e invece lo sono i bambini. Senta professore, adesso proviamo a sentire un mix di Chewbacca e Popolo degli Ewok creato da Flavio Suardi. Sentiamo un po'. Allora, questi suoni mixati, tra l'altro, sono disponibili sul sito di Guerre Stellari di Star Wars, perché hanno inventato una sorta di mix dove si possono mixare tutti gli idiomi e tutte le parlate di Guerre Stellari, tra cui anche Darth Vader, Luke Skywalker, per cui insomma si può creare in una logica remix che abbiamo raccontato in queste trasmissioni un nuovo linguaggio. Ma la domanda che volevo fare io è: i linguaggi alla Chewbacca, cioè i grugniti sostanzialmente, cioè i linguaggi degli animali, possono essere tradotti in una lingua? Ma dunque, intanto quello che ci avete fatto sentire era veramente molto interessante. Tutti avremmo avuto l'impressione che il primo fosse una specie di lamento, un grugnito veramente, mentre il secondo una lingua di qualche tipo non nota. La differenza la fa l'esistenza della sillaba. Le sillabe sono l'unità minima fonologica di tutte le lingue. Se una lingua non ha una sillaba, non è una lingua. Detto questo, il linguaggio degli animali ha sicuramente una ricchezza molto estesa. Ci sono le api che riescono a comunicare dove sta il polline, quanto polline è, a che distanza. Però gli esseri umani, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, hanno una capacità particolare che chiamiamo sintassi, cioè la capacità di disporre le parole e di dare un senso secondo l'ordine in un modo potenzialmente infinito. Faccio un esempio semplice: se io dico Caino uccise Abele o Abele uccise Caino, io uso esattamente le tre parole identiche, però l'ordine dà significato, e questo posso estenderlo quanto voglio. Posso dire Maria dice che Caino uccise Abele e Pietro pensa che Maria dice che Caino uccise Abele, eccetera. Questa capacità ce l'abbiamo solo noi esseri umani. Non è stato trovato nessun essere vivente in grado di manipolare gli elementi primitivi del suo codice di comunicazione in un modo così sofisticato. Ecco Moro, ma per quanto riguarda invece la lingua dei robot, un sms che è arrivato ci dice: ma C1P8, non so se lei ha una certa maneggia insomma la materia di Guerre Stellari, ecco, cioè una lingua fatta di fischi e di vocine digitalizzate. Ma dunque, non so se l'ha fatto per caso o meno, ma comunque per quanto riguarda la lingua fatta di fischi c'è addirittura uno studio molto interessante fatto da colleghi della Harvard University che hanno proprio studiato una varietà di un dialetto italiano dove dei pescatori comunicano utilizzando proprio dei fischi. I fischi possono essere semplicemente un modo per comunicare a distanza. Quello che preme osservare è che la cosa importante è proprio, diciamo, la struttura matematica che sta dietro le lingue. E difatti non è un caso che noi esseri umani non solo siamo gli unici a parlare, ma siamo gli unici in grado di contare e di comporre musica nel senso più ampio che la semplice sequenza di qualche nota, come capita per esempio nel canto degli uccelli, ecco. Moro, un'ultima domanda intelligente, visto che appunto noi siamo gli unici a parlare e in fondo dice c'è una tessitura matematica sotto tutte le lingue, ma perché parliamo tutti una lingua diversa? C'era un linguista, Rulen, che diceva ma in fondo discende tutto alla stessa lingua. Dunque, questa forse è la domanda delle domande. Brevissimo, perché mi fanno segno che devo... Intanto probabilmente noi parliamo la stessa lingua perché abbiamo tutti lo stesso cervello, è un po' come chiedere come mai i ragni non fanno ragnatele differenti. Noi abbiamo una matrice comune in questo senso. Sul fatto di come mai la natura abbia permesso che noi avessimo lingue diverse, io ho un'ipotesi personalmente, ma è un lavoro in corso, e che consiste nell'ipotizzare che un'unica lingua comune non avrebbe permesso la costruzione di villaggi, ma solo di una grande megalopoli, e quindi avrebbe reso ingestibile in epoca storica la civiltà. È chiaro, era quindi è il ritorno di Babele, non la dannazione di Babele. Va bene Moro, io la ringrazio, ringrazio anche Guido Romeo. Noi ci sentiamo domani alle 16:30 con Luca Dello Jacopo.